La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30, primi 46 secondi qui dagli studi di Milano di Radio 24. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazio come sempre per l'ascolto in diretta in podcast. Vi ricorda l'indirizzo della versione di Oscar @radio24.it, perché anche oggi la puntata nasce infatti da vostre segnalazioni. E, diciamo che per evitare di avvicinarci alle amministrative facendo parlare solo i politici, il criterio sarà che ci occupiamo di volta in volta di un po' di problemi delle maggiori città in cui si vota, però parlando dei problemi, facendo parlare chi ce li segnala da Torino, Milano, Roma, Napoli e così via, per sposare un po' l'ottica degli ascoltatori, dei cittadini che ci vivono nelle città. Allora vi dico subito che oggi la puntata è in particolare dedicata a Milano e affronteremo alcuni problemi del traffico, anzi delle multe, quindi 800 24 00 24 per intervenire, multe a Milano, qualunque problema voi vogliate segnalarci, e per gli sms 349 238 66 66. Vi dico subito che oltre a un collega giornalista che ha scritto proprio stamattina un pezzo su questo, relativo a multe per coloro che hanno i disabili a Milano, avremo anche comandante dei vigili, quindi se telefonate e ponete qualche problema avremo naturalmente la controparte anche per chiarire qualunque cosa. Fatemi dire, prima di presentarvi gli ospiti, che la giornata sta andando male sui mercati, perché in questo momento il FTSE BIM perde un po' meno del 2%, ma insomma è il comparto bancario che continua a scendere con titoli come quello della Popolare di Milano e del Banco Popolare, che sono arrivati a perdere anche il 10%, in particolare le trimestrali di stamattina, quelle di Unicredit, Carige, Banca Popolare di Milano e Banco Popolare, all'indomani anzi di queste trimestrali, diciamo, in generale non sono troppo piaciute al mercato, come si è già visto su Unicredit. Il Banco Popolare ha comunicato a sorpresa nuove svalutazioni sui crediti a rischio per 684 milioni di euro, e quindi c'è una perdita di 314 milioni. E, ovviamente il tasso di accantonamento sui crediti sale dal 60 al 62%, perché è la BCE, in vista della possibile fusione tra Banco Popolare e BPM, a chiedere il rafforzamento delle coperture dei crediti deteriorati. Leggo sul Sole che questo sarebbe testualmente lo scotto da pagare alla BCE per ottenere via libera alla fusione con la BPM, perché l'autorità di vigilanza sarebbe troppo dura nei confronti delle banche italiane. M'inchino di fronte all'opinione del Sole 24 Ore. Io sono di opinione totalmente opposta, cioè il problema è che è un bene alzare gli accantonamenti e le coperture dei crediti deteriorati, ed è un male aver aspettato tanto tempo per dichiararli e farli emergere in bilancio. Però io mi rendo conto che sono minoranza da questo punto di vista, però chi ci ha raccontato per anni che questo è il sistema bancario più solido del mondo, a mia opinione, ha venduto una clamorosa fesseria, come si vede. E detto questo, mi prendo quindi la mia minoranza, il rischio di dirla e continuare a dirla così. Per il resto vi rinvio a Sebastiano Barisoni per Focus Economia, che come sapete la pensa diversamente da me, e andiamo invece a presentare i nostri ospiti. Allora, i nostri ospiti sono, appunto, come vi ho detto, Luca Vaglio, che ha scritto stamattina un articolo sugli Stati Generali raccontando la sua esperienza di automobilista disabile qui a Roma, a Milano, alle prese con le multe. Grazie Luca di essere con noi. Grazie a te, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Ecco, è il comandante dei vigili di Milano, Antonio Barbato. Grazie moltissime di aver trovato il tempo malgrado i suoi impegni. Buonasera, grazie a voi. E lo so, ogni tanto bisogna rispondere direttamente, quindi. Allora, io prima di far parlare Luca Vaglio, do rapidamente lettura di un ascoltatore che ci ha esposto il suo caso. Questo ascoltatore si chiama Roberto, Roberto Maremmani in particolare, e ci parla di quello che gli è accaduto, perché dice: venerdì scorso, 29 aprile, quindi è di due settimane fa, posteggiavo la mia Ford Fiesta sulle strisce blu in viale Andrea Costa a Milano. La via non è compresa nella mia zona di residenza e quindi ho attivato il servizio di pagamento telematico della sosta, il Ping Telepass. Il logo Ping era regolarmente esposto in alto sul parabrezza, nella zona dove sono esposti anche il disco orario e l'autorizzazione alla sosta per residenti. Dopo un paio d'ore torno all'auto, trova un verbale di contravvenzione per mancato pagamento redatto dall'ausiliario della sosta matricola, ci indica la matricola. Il verbale di 28,7 euro se pagato entro 5 giorni era giustificato per non avere azionato il dispositivo di controllo del pagamento ed era accompagnato dalla nota del verbalizzante in cui appunto si specificava la cosa. L'ausiliario non aveva guardato bene o non aveva visto, pertanto non aveva rilevato la presenza del logo Ping sul bar a Brezza. Il lunedì seguente mi reco agli uffici di polizia locale di via Friuli per capire cosa avrei potuto fare per risolvere la faccenda. La risposta dell'addetto di polizia locale è la seguente: mi ha sconsigliato l'opposizione in autotutela, in quanto avrei dovuto farla alla polizia locale mentre il verbale era stato elevato da un dipendente dell'ATM e quindi difficilmente sarebbe stata accettata. In alternativa avrei potuto rivolgermi con un esposto al prefetto, ma se il prefetto avesse avuto tempo di leggere l'esposto e l'ha detto, mi dice, la probabilità è di circa il 30%, mi avrebbe certamente dato torto, in quanto c'era la mia parola contro quella di un pubblico ufficiale. Io non avrei avuto modo di portare delle prove che il logo Ping l'avevo effettivamente esposto. Come terza possibilità c'era ricorso al giudice di pace, dove si svolge un vero dibattimento le cui modalità di accesso prevede tra l'altro un pagamento preventivo non rimborsabile di 27 euro. A questo punto ho realizzato che la cosa più conveniente sarebbe stato pagare la contravvenzione e pure in fretta entro i 5 giorni per non perdere, che nel frattempo siano ridotti a 2, per non perdere lo sconto. Mi sono rivolto anche ad Altro Consumo, di cui sono socio, e praticamente mi hanno confermato le tre possibilità che mi aveva detto l'addetto di polizia locale via Friuli. Alla fine quindi mi sono comportato da cittadino succube, ho pagato la contravvenzione, ma insomma la cosa non mi va giù, perché il comune, va bene, incasserà beatamente anche il pagamento della sosta e con ogni probabilità non incrocerà i dati, non mi rimborserà i 2,68 euro del Ping Telepass che io avevo pagato. Però insomma sentirsi dire che questa è la condizione di chi ovviamente adempie a quanto previsto e alla fine è meglio che paghi una contravvenzione che non gli spetterebbe, è qualche cosa che mi è sembrato uno schiaffo in faccia. Ecco, questa è la lettera di Roberto Maremmani. Allora, e che quindi ho letto in maniera che poi il comandante dei vigili ci dica se le cose stanno davvero così oppure no, a suo giudizio. Allora, sentiamo invece Luca Vaglio. Il caso di Luca Vaglio è diverso perché, come ho detto all'inizio, Luca è regolarmente munito di un tagliando in quanto conduttore disabile di un'auto. Cosa è accaduto, Luca? Ma la vicenda appunto è quella che racconto nell'articolo in modo abbastanza dettagliato e chiaro. Sostanzialmente aspetta, fammi dire che è pubblicato su, chi volesse leggerlo per esteso, www.gliestatigenerali.com. Esatto. Sostanzialmente, ai sensi dell'articolo 3 del DPR 503/96, le macchine che espongono contrassegno disabili possono parcheggiare nelle aree pedonali, purché in quell'area pedonale sia consentito l'accesso a un veicolo pubblico per attività di pubblica utilità, tipo carico o scarico merci, ossia quasi tutte le aree pedonali urbane. Quella in cui io parcheggiavo comunque ha questa possibilità di accesso a veicoli di carico o scarico merci, e quindi nel momento in cui un veicolo che espone in contrassegno disabile appunto parcheggia in un'area pedonale, appunto, se la sosta non è pericolosa per la circolazione del traffico, insomma, comunque così via, è autorizzato appunto a parcheggiare. E questo è sempre stato così, insomma, dalle norme del 96, ma credo che fossero appunto anche norme precedenti che autorizzavano appunto questo tipo di parcheggio. E tant'è che io, già spallanzando, tante volte appunto parcheggio non trovando posti in nessun posto, e a volte trovando anche macchine senza contrassegno disabili nei posti dedicati ai disabili, ma va bene, insomma, così molte volte mi capita di lasciare la macchina appunto in quello spazio lì, in via Spallanzani, che è un'area pedonale, e l'ho sempre fatto senza quasi mai appunto ricevere, insomma, senza mai trovare delle multe su una prezza, salvo qualche volta, un paio di volte, e recandomi all'ufficio procedura sanzionatoria di Friuli, poi ho appunto avuto la possibilità di vedere questa multa annullata in via tutela facilmente, perché insomma era andato un po' per pacifico, insomma, perché comunque il tuo comportamento era perfettamente legittimo ai sensi del normale, quindi comunque lì può essere un errore di notte, magari appunto il vigile passa e non vede il contrassegno disabili, può succedere l'errore. Quindi, comunque fatto sta che il fatto che l'amministrazione appunto ritenesse legittimo il mio comportamento, oltre alla legge, era testimoniato dal fatto che la multa viene annullata in autotutela automaticamente, senza nemmeno appunto pensarci su un secondo. Sì. Da qualche tempo, insomma, dallo scorso autunno fino anche appunto a poche settimane fa, parcheggiando la macchina nello stesso posto, nell'arco di poche settimane appunto ho ricevuto 5 multe. Quindi c'è questo, mi ha dato un po' da pensare. La cosa che mi ha fatto ancora più riflettere è che in alcuni verbali appunto fosse scritto quindi che nel verbale del vigile, insomma, comunque la persona che faceva appunto, aveva fatto la sanzione, aveva rilevato appunto che c'era un contrassegno disabile del sotto comune di Milano, quindi questo mi ha fatto un po' riflettere. Fatto sta che appunto sono andato in mia frigo appunto chiedendo l'annullamento come ho fatto in precedenza, e questa volta c'è stato un atteggiamento da un lato cortese dalle dipendenti, che è stata appunto gentilissima, anzi ha fatto le stesse ricorso al prefetto, le multe notificate in ritardo le annullate lei direttamente alla tutela, quindi non è un problema di dipendente, di cortesia, insomma, dipendente comunale, assolutamente no. Però chiaramente ha detto di non poterla annullare, non riuscendo bene a spiegare, dice, guarda che prima le annullavate, sono multe appunto illegittime, perché insomma, non sapendo spiegare, addirittura è andata a chiedere spiegazione al superiore, tornando e mi ha detto, guardi, mi sono preso rimprovero, non posso che insomma far così, forse appunto è che alcuni fanno i furbi, allora si puniscono appunto anche quelli che insomma agiscono correttamente. Ho detto, ma questa non è una giustificazione. Il fatto sta che insomma mi sono preso rimprovero, non posso che fare così, insomma, al massimo facevo un ricorso al prefetto, ma io questa multa non la posso annullare. Quindi i fatti sono questi, insomma, sostanzialmente. Poi nell'articolo parlo di altri atteggiamenti, di altre situazioni che nell'ultimo biennio, da parte comunale, hanno lasciato appunto intravedere, hanno tradito forse appunto un eccesso di insomma. No, perché tu esplicitamente richiami che nel 2015 il Comune di Milano ha incassato oltre 180 milioni grazie alle multe, esatto. Cioè 51 milioni in più rispetto al 2014. Esatto, insomma, esatto. Esigenza a fare più cassa, ragazzi, è contenta. Sì, sì. Però un conto è se lo si fa in modo legittimo, poi si può discutere. Un conto è se questo appunto avviene poi in direzione delle leggi, insomma, non più le leggi che tutelano i diritti disabili, insomma. Oh, nell'articolo accenni anche al fatto che per via dell'aggravamento intervenuto nel frattempo dal punto di vista normativo delle sanzioni per l'ipotesi di omicidio stradale, cambierebbe quindi anche la possibilità di sanzionare la sosta, sia pur in area consentita come quella di un titolare del contrassegno disabile in area pedonale, ma se in posizione pericolosa. Ma tu eri in posizione non pericolosa. Cambia, in realtà, esatto, cioè quello che io dico, cioè, cito un'intervista appunto del capo di vigile Barbato, che appunto potrà dirci la sua appunto, cioè in realtà appunto c'è, cioè, questa intervista appunto in cui si palesa appunto, e forse un po' si spiega appunto l'atteggiamento, il fatto appunto di comunque sanzionare con più severità le soste abusive così considerate pericolose. Però il punto è questo, che è giusto sanzionare qualunque sosta abusiva, appunto. Non c'è la figura giuridica che io sappia della sosta abusiva pericolosa, tanto più non lo può decidere un'amministrazione comunale, appunto, in virtù magari dell'introduzione del reato di omicidio stradale, sono cose diverse. L'amministrazione comunale non fa le leggi, appunto, le fa il Parlamento, le leggi, le fanno le regioni, al limite non il comune. Quindi il comune semplicemente è giusto che sanzioni le soste abusive, appunto, a norma di legge. Ma tu a questo punto vai dal giudice di pace oppure no? No, io faccio il ricorso al prefetto. Oltre appunto a fare questo articolo, farò il ricorso al prefetto. Se l'amministrazione, chiaramente, man mano che vengo notificata a caso, io vado comunque in affidarli e chiederò ogni volta l'aumento di autotutela, perché è giusto che sia fatto, come era fatto fino a poco tempo. Ma continuerai a parcheggiarla lì? Questo appunto in qualche modo questo un pochino sono un po' condizionato, quindi tendo appunto a cercare ad evitare in qualche modo appunto. Per quanto appunto abbia protestato, abbia scritto un articolo, sarò il grosso prefetto, dall'altro lato appunto la mia libertà di cittadino è stata un pochino condizionata. Allora, due casi, come avete sentito, quello di un ascoltatore che parcheggia con regolare pagamento sulle strisce blu in viale Andrea Costa a Milano, becca la contravvenzione, e però le tre ipotesi che gli fanno gli dicono vabbè, allora pago comunque, perché che devo fare, perché non aveva testimoni per così dire, quindi rinuncia all'idea dell'esposto al prefetto e rinuncia al ricorso al giudice di pace. E il caso invece di Luca Vaglio, disabile, che è al quale quale è consentito la sosta, è consentita dalle norme vigenti nella pedonale, e che però da ottobre a oggi inizia a riscontrare che lo sanzionano, e non si capisce bene il perché. Questi i due casi concreti, per così dire, su cui dopo il minuto di interruzione per le notizie sul traffico sentiamo che cosa ci dice il comandante dei vigili di Milano. A tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:48 primi e 9 secondi. Abbiamo sollevato due casi di ascoltatori o di un collega. Stiamo parlando del traffico a Milano, in particolare delle multe. Il primo ha lamentato il fatto che ero in regola, ma insomma le strade che mi hanno consigliato di pagare basta. E il secondo è il caso invece di un disabile che dice: ma com'è che io sono autorizzato alla sosta in certe aree e adesso iniziano a multarmi? Sullo sfondo l'aumento del 28% di incassi nel 2015 da multe a Milano rispetto 2014. Allora, comandante Antonio Barbato, grazie ancora di nuovo di essere con noi, di aver avuto la pazienza di ascoltare. Che diciamo intanto dei due casi? Però io le faccio una domanda innanzitutto: il 28% più di incassi in un anno è tanto? Sono i milanesi che il 28% sono diventati più contravventori? Siete diventati più scrupolosi voi o che cos'è? No, il 28% in più dei casi è dettato da una serie di telecamere che sono state poste in alcuni punti di Milano, dove negli anni avevamo riscontrato un numero di incidenti stradali piuttosto elevato e anche con esiti mortali. In alcuni casi avevamo rilevato, e soprattutto con la posizione di questi autovelox, velocità in città fino a 202 km orari. E quindi diciamo che per quanto riguarda polizia locale il problema era come arginare questo tipo di fenomeno, considerando che purtroppo gli incidenti mortali ci sono ancora, e la maggior parte purtroppo nell'ambito del nostro territorio nazionale avvengono proprio nelle realtà urbane. Detto ciò, quindi l'aumento è dettato non da un aumento dell'attività della polizia locale intesa come agenti di polizia locale, ma da un aumento, da un potenziamento degli strumenti di controllo. Potenziamento di strumenti, eccetera, ma soprattutto un carattere preventivo, perché inizialmente effettivamente avevamo riscontrato un numero piuttosto elevato di contravventori. Poi con il tempo devo dire che adesso si sono ridotti, credo, del 90%. Quindi serve. Sì, perché almeno sapendo che lì c'è questo mezzo che può rilevare, si sono ridotte le velocità, sono diminuite del 50% gli incidenti stradali e quindi anche con sanzioni a buon fine. Ma però in questi due casi stiamo parlando di cittadini che da quello che dichiarano sono in regola. Assolutamente, voglio dire questo. Sul primo caso purtroppo posso solo dire che le attività degli ausiliari della sosta non sono in seno al corpo della Polizia Locale di Milano, nel senso che c'è un contratto tra il Comune di Milano e gli ausiliari che sono della PM, sì. E però effettivamente io posso comprendere lo sconforto di questo cittadino che effettivamente, probabilmente da quello che so, e so poco, devo dire la verità, c'è qualche problema ancora con l'utilizzo di questo nuovo strumento, che è un'app, se non ricordo male. È un'app, ecco. Sì. E quindi credo che avrebbe fatto comunque bene il cittadino, pur comprendendo che di fronte a una cifra così piccola ha preferito a fare l'opposizione, lei dice, no, avrebbe dovuto comunque tentare la via del prefetto. Sì, l'avrei fatto assolutamente, perché è comunque un principio. Perché in questo caso i verbalizzanti, lo spiego a chi non è di Milano, in questo caso i verbalizzanti che sono ausiliari del traffico ATM, nella nota che mettono sul verbale c'è una sigla che è no pag, no pass, no logo app, perché significa che loro a quel punto digitano attraverso questa app sul loro apparato digitale portatile e non gli risulta il pagamento e il pass, e quindi ti levano la contravvenzione. E anche in questo caso, ci scrive l'ascoltatore, c'era esattamente quella dizione, anche se lui aveva esposto il tagliando dell'avvenuto pagamento. Quindi ci dice il comandante, c'è un problema ancora di registrazione di questo apparato digitale. Penso che siano problemi proprio di natura informatica, però questo non giustifica ovviamente che un cittadino debba pagare una sanzione amministrativa. E nel secondo caso, visto che stiamo parlando di un disabile, io ho appena guardato tutta la vicenda e mi sono fatto dare dai miei uffici e ho verificato effettivamente che il signor Luca Vaglio ha perfettamente ragione, nel senso che la norma che lui cita, che però è all'articolo 1 e altri terzo comma, comunque non cambia niente, questo è di fatto, effettivamente fa in modo che le persone che abbiano delle disabilità, e lo dice uno che ha un papà che è disabile, quindi può immaginare che c'è una certa, come dire, empatia, no, certo. E sensibilità rispetto a questa cosa, hanno il diritto di parcheggiare ovviamente anche nelle zone a traffico limitato, pedonali eccetera, appunto nelle condizioni in cui la norma prevede, che non creino intralcio, problemi eccetera, e qui effettivamente è proprio la situazione classica quella che segnala il signor Luca Vaglio. Io ho già dato disposizioni, le sto mettendo ora per iscritto, le ho date in forma orale ai miei uffici di via Friuli, perché stiano attenti a questo tipo di situazioni affinché vengano posti in autotutela, comprese quelle del signor Luca Vaglio, ma non perché gli stia piacendo un piacere, ma perché è giusto così. No, ma questo mi fa particolarmente piacere, devo dire la verità. E quindi verranno messi in autotutela e darò un'indicazione scritta in modo che anche gli operatori che sono capitano raramente, devo dire, queste situazioni, perché non sono. Ecco, poi siamo un corpo di 3.200 agenti. No, no, ma per carità, io prendo atto del fatto che di fronte alla segnalazione con una precisa descrizione, lei esamina e dice: no, le mettiamo automaticamente in autotutela. Le chiedo ancora due minuti di attenzione, perché mi dicono che c'è un ascoltatore che interviene e che mi dicono che sia un dirigente della polizia in pensione. Claudio da Forlì, è vero? Lei è un dirigente della polizia in pensione? Confermo. Ecco, che ci voleva dire? Un'altra dirigente. Allora, guardi, io sono stato anche presidente delle commissioni disciplinari degli agenti di polizia, e le posso dire questo, che quando un agente di polizia in generale, quindi anche della pubblica sicurezza, commette una negligenza in servizio, subito dopo si apre un procedimento disciplinare. Allora voi mi dovete far vedere un solo caso in Italia in cui, in esito a una sentenza del giudice di pace che dà torto alla polizia locale, poi il comandante abbia aperto un procedimento. Allora, giusta osservazione, oltretutto viene da un ex addetto del settore. Che dice il comandante Barbato? Ma io dico, guardi, si può sbagliare in un lavoro, si sbaglia. Si può sbagliare perché si è convinti che la norma sia stata interpretata correttamente o meno, si sbaglia anche per ignoranza, per l'amor di Dio. Però un provvedimento disciplinare fatto a un agente che ha sbagliato una multa significa che questo agente non farà mai più multe nella sua vita. Invece, se ha sbagliato un conto, ma se effettivamente invece ha fatto un abuso, allora ci sono ben altri strumenti che il codice disciplinare, perché noi in casi come questi, che fortunatamente si verificano in modo molto però raro, mi ha colpito, abbiamo fatto ben altro. Però mi ha colpito che a intervenire fosse un alto dirigente della polizia, molto alto, mi dicono adesso. Ringrazio Claudio da Forlì che ci ha chiamato, e ringrazio il comandante dei Vigili di Milano Antonio Barbato, grazie a Luca Vaglio e al nostro ascoltatore che ci ha scritto, Roberto Maremmani. Purtroppo credo che il più amaro alla fine resta lui, in bocca. Continuate con la 24, appuntamento come Alessandro Mina domani alle 8:15. Attenti a noi due.